sai già, so che già lo sai. Se vinciamo gli europei io ti porto dove vuoi. Quanto è bella Torino, quanto è bella la Mole. Che ne dici di Verona, la città dell'amore? Quanto è bella Firenze, la sua cattedrale. L'Italia si era spenta per tornare a ballare. Se vuoi stato a Napoli, fammi quattro babà. Perché me guarda così, guarda che bella città. Altro che cinque terre, sono cinque meraviglie. Questa è la Liguria, sia Ponente che Levante. Una pizza italiana a un passo dalla luna. Quattro amici per strada, culture diverse. Stessa canzone, una terra lontana. Ma fermati un secondo, dimmi dove vuoi andare. Stasera io non esco perché c'è la nazionale. Dai già, so che già lo sai. Se vinciamo gli europei io ti porto dove vuoi. Da Berlino a Shanghai ci sarò se ci sarai. Ti ferò se ti ferai. Come quando aspetti un gol che poi non arriva mai. Da Roma a Milano, se vuoi prendiamo un aereo. Ce ne andiamo lontano, ma anche da lontano sarò sempre comunque italiano. Lo senti sto vento, il cuore del Salento. Non importa il dialetto da dove provengo, mi sento lo stesso abitante del mondo. Torneremo a viaggiare tenendoci per mano senza avere barriere. Cantando per le strade senza silenziatore, senza distinzioni né di sesso e colore. Insieme a mangiare una pizza italiana a un passo dalla luna. Quattro amici per strada, culture diverse. Stessa canzone, una terra lontana. Ma fermati un secondo, dimmi dove vuoi andare. Stasera io non esco perché c'è la nazionale. Dai già, so che già lo sai. Se vinciamo gli europei io ti porto dove vuoi. Da Berlino a Shanghai ci sarò se ci sarai. Ti ferò se ti ferai. Come quando aspetti un gol che poi non arriva mai. Buongiorno Italia, sei metà e poi metà, sei la felicità. Mando una cartolina, l'estate tornerà. Sei in vino veritas, ovunque arriverai. Dico buona fortuna.